Se tá aqui, eu vou provar uma laqueada. Olá. Hola. Hola, tu con questa, sta la mia, la famosa mia. Spendiamo un po' di più. Ok. Vabbè, sarà dove decidi sto. Sicuramente sì. Però se non trovi è ottimo. Si conferma. Cucù. Ah, cambia tanto da ciccio. Ma l'hai capitato tu? No, un segnale abbastanza fortino, ma non per venire qua. No, negativo. Tutto che hai fatto male, allora va bene, funziona dell'altro. E fine. Ui ragazzi. Casino questo. Tanto a futtidini, cos'è la fonte della ruta? Cioè, sti pigono solo da me. Allora, ancora di manco. Ma non ha fatto un cazzo a me. Campo di mappe, sì. Il bari. Sto lavorando, lavoricchiando. Non è un lavoro quello, però. Ci vuole giovane. A fine mese mi prendo i soldi. Mi ritiro i soldini. Qualche cosa c'è? Infatti. Ma io non mi rode il culo. Forse è da zì. Ma se non guarda, se non mi durerà più, se non vado d'accordo. È inutile riprovare, riprovare quando non funziona. Cioè, se una cosa non funziona, vuole riparata. E così è quella è barba. Cioè, per come la vedo io. Non puoi sempre aggiustarla, poi si riguarda. Infatti se tu butti un bicchiere in terra, un bicchiere di vetro, lo spacchi, non ce la fa aggiustarlo più. Appunto. Tanto lo sai com'è. Ci saranno dei motivi sempre, se ci sono dei problemi. Quando li conosci bene, sono dei motivi seri. Ma infatti. Io problemi non ha già, tu capito? Capisci a me? Ma spero che stiamo commutando, facendo una cosa. Cosa ti difendi? Difenda, difenda tu. Ecco qua, così va bene. Hola, hola. Funziona, sì? Sì, sì. Ok. Prende il corpo, come fa la moto? Niente. Gabri, come fa la moto? Gabri. Rin, rin. Oh. Ehi, raga, lo yoga ancora lì. Oh, quanto chico sta giocando? Oh, sono un po' stanco. Stavano entrato a mandare qua in moto, cazzo. Ma prima dobbiamo fare commissione. Questa sera ci ho comprato un po' di benzina. Un litro di benzina mi ha messo il motore spogliatore. La prima? Il spogliatore non posso dire, ha detto qualcosa. Va bene. Un litro di spogliatore deve far scaldare e poi comincia a accelerare, se no sta poca. Poi anche la motosega, gli ho messo una candela più fredda e devo scaldare per essere più gente. Perché me le bruciamo le altre. Non sempre pugnate. Beh, immagino. Poco assorbimento. Qualcosa, mo? Ci vanno a scendere in macchina, due paia ne ho lì. Sì. si può vestire di piazza, sbucciare il capo. Oh, yeah. Casino alto. Comunque faccio un bel bene a questa radio tua, sono un bel forte. Adesso facciamo la prova di questa. Solo che voglio capire come lo spinotta, solo un attimo, altro, due secondi. Dopo devo aprire. Allora. Come comunque il capo alla palla ha detto, è messo in gioco, sono mosso, mosso, cazzo un sacco. Mi senti? Attento Luca, mi senti dalla camera da letto? Sì, Antu, sì, un attimo, sì, ti sento. Sì, andiamo. Antu. Antu, guarda un po'. Antonio. Vanni, dimmi. Guarda un po', com'è questo? 1, 2, 3, prova. Mi sembra buona. No, ti sembra, va bene. Sì. Ok, da, aspetta che lo spino. Ti sto ascoltando con l'autoparlante delle cose, come si dice? Esterno, e ti sento bene. Il spogliatore fa poco fumo fa, lo sai, quasi niente. Tu Giulio buono. Sì, Giuliano, di buonimondezza. Perché l'hai tirata a terra? Non ce l'ha più bene. Ha tirato a terra il trenino, ma dimmi tu. Giulio Bonucci, anche la moto fa poco, io lo so perché fa poco poco di fumo, a freddo me. Perché io uso la miscela poco poco grassa. Solo per quello, se non mi fa di fumo. Quando si usa olio buono. Non ho voglia di stare a motore in mano io. Io la potenza poi è derivata dall'olio. Mentre che il PT 70 quando è un olio schifoso non ti renderà mai. Non ti renderà mai come quando usi un olio sintetico buono che non ti lascia residui. Se la mia boccia era molto dura, cazzo, si era impurata. Già camminava. Se ti puni una roba del genere, guai. E la mia camminava perché c'erano anche i pezzi 75 e rapporti. Guai se usavi l'olio che uso io, cazzo si misurava. Come a cannone proprio. Infatti io l'accerata è bella piena la mia, perché ci sarà un motivo. C'è lui per 70. Beh, ti credo. Non è proprio. Cioè. Non è... Se ne fai un bel pezzo accelerando non ti si blocca la moto. Ascolta, questo qua è l'altro. È uguale? O è meglio? Sento molta differenza. Quell'olio non ha solo il potere di lubrificare il pistone. Non deve lasciare residui. Le parti meccaniche se vedete per lubrificare tipo lo spinotto, la gabbia a rulli deve avere una buona lubrificazione, se no ti rifascia subito, te li sballa. Aspetta 2 secondi, mi avvicino in cucina, aspetta arrivo. Ok. Quella è la cagnolina, capito hai Gabri? No. Eh sì, c'è una cagnolina, c'ha, che fa bau bau. No. di fantasia. Gabriele. Vabbè, mica può sento io. Oh, Gabriele. Stiamo mangiando aglio. E mi dice... Ma l'hai vista quella bomba che ci ha portato in via Rosselli? No, io sono canto di cosa adesso. Devi telefonare Antonio... Non credo, Romeo, non a me. Diabola, ci sono io domani. E dove? Le bombole, giungono per uno. Che Dio va a fare? No, io sono sui giorni, Anto, ho segnato. Tutti i santi di... Oh, yeah. Tutti i santi giorni. Oh, yeah, grazie. Ma va bene così. Va bene. Beh, certo, se ti va bene così. Ma domani c'è un giorno libero, quindi oggi mi sono fatto tutti i documenti. Ma non è che mi va bene, non è che mi va bene, io vorrei lavorare tutti i giorni. Ma va nessun un giramento di balle mi. Con Guido Romero con me. Cioè, perché passano le bombole e cosa. Si fa prima le pigliele passano d'inverno. Ho capito, c'è un rumeno. Se non vuoi, non vuoi andare già salire a travagliare. Di cosa vuoi va? Ne hanno provato 200.000 ma sono gente da circolo. Babarda circolo, non sono gente che si è dovuto dare ai romeni, perché almeno i romeni lavorano. Sai quanto ne hanno provato i Sassari? Che, oltretutto non sanno guidare la moto, primo. Secondo, no, non ha chippini, no, non sanno le vie, non sanno fare niente. Quello là invece, anche se è corso, però studia, cioè, riesce a usare la testa. Ma ne hanno provato tanti, ne hanno provato. E io come sono andato mi hanno pigliato subito, perché stavano uscendo fortemente. Mi ha pigliato subito mi hanno pigliato. Perché no, non riesco a trovare il personale. Lo so, Anto, non so come fa, purtroppo. Purtroppo niente, non la gana di travagliare. Ma perché mi hanno preso subito il panificio? Subito. Se n'è andato, tu non avevi ripiegato a te. Mi sa via. Stavamo cercando di disperatamente una portata del pane. Ti abbiamo ripiegato subito. Senza città... un simone. Poi si è fatto la prova con lui, il giro, e poi che avrebbe mandato da solo. Infatti io gli ho imparato, ci ho messo proprio di una settimana a imparare il giro. Alla fine, ragazzi, non ti faccio manco una curva, per il momento c'ho quello, poi se trovo di meglio me ne vado, capito? Me ne vado, per il momento sto lì. Mi è molto utile, su Giovanni e Giovanni, e Giovanni e Tony di Zia Ghita, che adesso è quelli che sono, contato dalla radio, capito? Giovane, Tony. Da voglia di stare al circolo, non ha voglia di andare al bar. Scusate, hanno tutto, hanno. Non è, cioè, io anche quando passo in via Turati la sera, cioè, a una certa ora, siccome non mi tengo troppi soldi in tasca, e quindi a una certa ora vado a versare da lui, non tengo troppi di in busciacca, raga, capito? Da quando vado a quando li vedo sono sempre 30 rubare, ma cosa vi fa 30 rubare? Ma che notizia con travaglio? Siamo dei pigliani di cittadina, di dello Stato, tipo reddito cittadinanza. Oppure, non lo so. Adesso questo, ma purtroppo è un casino. Ce n'è gente che non ha voglia di fare un cazzo. Oh, ci sono mani pagatori, si sa. Beh, un pezzo di gospel, sono quelli, come si dice, quelli che sono mai bagatori, a chi me li sono bello. E non dimmi di no, non dimmi di no, che è pieno di saietti. Pensa a guadagnare, capito? Guarda, ti faccio l'uguro, guarda, bambina. Invece con il mio collega, uno mi chiama per fare, sì, lavori, perché lavori, però, come si dice, ti paga bene, sei pagato bene. Ma appunto, io sono sempre andato a lavorare, sempre andato al lavoro, sempre. Cioè, sono sempre fatto il soldo, anche se era poco, però l'ho sempre tirato, l'ho sempre tirato via. Cioè, quando andavo anche, quando c'era mia moglie, adesso non lo posso più fare. Andavo anche la sera al circolo a farmi con le 20 euro. A farmi con le 20 euro e... come si dice? Andavo anche a farmi quelle io. Andavo a lavorare, cioè a una certa ora andavo, ritiravo le sedie, a volte me ne dava anche di più, da Cristian a me, e tutti i biglietti di Baruguro, con la birra in mano, piglia Baruguro, io mi danno i vinco, porto i soldi a casa, mia moglie, e tu piglia Baruguro ancora, intanto gli dinai un viraccio, poi tu... E come ti fate di te, si sbeveva una smaffa degli altri. Ehi, ma futti di ba, si era da clienti macca. Un amico che così, ma non sa andare a fare. Ma tu puoi fare che ci 30 euro, però ce li hai. Non devi niente a nessuno. E invece è più bello che li fate di offendere uno all'altro. Oh, ma tu, un sabato faremo, ci vuoi fare a cosa? Tu serve a bancari? Ma è andato. Sei andato? E mai? Sì, faremo un sabato. Questa settimana no. Vediamo l'altra settimana se... No, ma qui questa settimana no, no. Qui. Una giugana. Ma hai tu vuoi un bel ambientino in Kibbe? Tutti i rubi così mi pare, non so in chi. Ma va più qua, qua padrono. No, ci sono problemi. Non è per cosa di rompere il capo, però. Ho detto un po' di gnomi, ho per i chimi. E che siamo fatti? Bah. Siamo andati i chimi. Posso dare un attimino? C'è gambe. Parla. Vergognoso. Quando vuoi non mi sa di già da da da da. Che bello sta. Pare. Quanto fa? Dopo fa la rifatta adesso l'antenna, da un bel, vero? Guarda, ti faccio vedere una cosa, aspetta, guarda su WhatsApp. Yeah. Ma miseria, cazzarola, oh, Hai visto? Chi era il padre che faceva il radioamatore? Ma a Sassari? Vedi, so, fa da 26, dal 65 al 28, 775, 755. No. Tanta roba, no? Oh, ma sì. Cioè, amico di... Non so, ho capito male se era amatore a cibi, no? So. Amico, dove sto lavorando io? soldino. Ma tu mi devi dare torte. Vabbè. Chiappa. Chiappa, chiappa. Uia, grazie. Una doccia, buro. Una doccetta. Ci vuole, c'ho anche fame. Non sai, prima mi vuoi un panino, però. Più bello fiatoso. Sono sistemato con il cellulare. Ma io ho fatto 30 euro. Adesso che stava giù, poi si è piazzato il display. Bah. Andava. So, quando è che l'hai rifatto? Da due anni fa, vero? Può essere. Che l'ho sistemata. Eh sì. Sei anche tre fai. No, tre no. Una è dura, chissà. So. È perfetta, 1-1 in stazionaria. Quando aggancio mi arrivano 1-2, 1-3, ma va bene. No, la stazionaria di solito a me. Sono sempre le stesse alla fin fine. Non salgono. Perché bisogna fare la potenza, bisogna, come si dice? Bisogna tararlo per la potenza che ha. Capito? E quindi sono sempre lì di stazionare. Poi da lì tanto stazionare, 1-7, guarda. È sempre QRM. Dove era il QRM? Basciavi il bogo bogo. È strano che non è tra due giorni ancora. Ne uno, va. Cosa vuoi ancora? Che muore se non lo scriccio. Mantenna, roba di bere. Dai, fatemi che me la vendia. Se tu te la vendia. Ma le vuoi sentire, ma è quello di affianco. Sotto di chi mi ha peccata? Sono 3 anni quando entra mi ha dato. Cioè. Quando entra che sarebbe forse a vero? Beh, ho la posizione, aspetta tu 2 secondi, faccio un panico. No, non è un'ora che dice va. Tu andavi pure da Maurice, Santo, a pigliare le papà, ma da Maurice, e anche da Maurice devo scendere. Capitolo, ho detto, ga. Ho detto che devo scendere da Maurice, prima da Maurice e poi devo andare da al Conrad a prendere le papà del cane. Va bene. Anzi, mangio un panino. Occhio. Faccio una doccia, mica me vado. Poi una cosa sono qua. Il campane sto subendo. Ma che intendi? Chiaro e chiaro, 69. Ma che fa che è alzato, si teneva ancora meglio. A cappuccini. E lo so. Se vuoi venire sabato, alle 5 c'è la festa a cappuccini. Ma fatta dei nonni. Cosa? Mi riattristisce a vedere altri che hanno un nonno e lui no. Non è uno solo, ma... Vabbè. Vabbè, non c'entra niente, c'è la festa dei nonni, capito? Ma dove che sono i cacini? Cosa? E lì vicino a te. Ho capito. Che chiesa la fanno? Dove abiti tu? A Cappuccini. Non ho mai capito chi è proprio la chiesa di Cappuccini. Ho cercato comunale. Ah, ecco, ora ho capito. Ho suonato al conservatorio e mi hanno aperto. Da salire è suonato. Allora, va per il bello. Come la macchina tua. Tranquilla questa volta. Sei riuscito a risolvere i problemi. No, devo eliminare quella spia, adesso vediamo. Questo fine settimana lo faccio. Qui domenica c'ho un pranzo. Felicia. a settimo pite. Me l'avevi detto, sì. Cos'è la spia del motore? Dove è cambiato l'olio? Adesso appena li tiro. Cambio l'olio. Ma che la porti da Giuseppe? Vabbè, la porta. No, io quando apro la macchina me lo cambio io. Ma c'è che c'è anche la diagnosi, c'è, la vendono. Ah, che il computer te la spegni tu. Oh, la vendo. Ehi, ho visto video, ho visto. Ultimamente stanno prendendo piede, economicamente lo prendono. No, se compro mi compro un appunto. Compro e via. Più semplice possibile. Almeno, almeno su quelle cose li metto a mano io, li metto. E via. Ed è tranquilla. Vabbè. Mi è andata bene, Giuseppe. Però so. Lo so che. E tratta bene, adesso vado in bagaglio. E se che tu vuoi un tagliando, minimo 180 euro. No, non mi tratta bene, tranquillo. Stavolta ho fatto un lavoro alla macchina, non ho avuto niente. E ho sistemato l'antenna alla piazza di Patamona. Ah, e non è brillante. Assolutamente no. Scusatemi la macchina mia. Ah. Già va bene. Siamo finiti dalla benzina, lascia stare. Adesso faccio fare il cambio olio, filtro, come cambiare anche le candele. Dove l'aria, tutto. Tienilo bene quel motore, mi vorrà che non te ne pentirai, che ti ringrazia poi. Non so, vorrà fatta anche la cinghia o c'è catena la tua? No, se non lo so. C'è la cinghia forse. Tienilo bene il motore, vorrà che ti ringrazierà poi. Non avrà mai problemi. La cinghia a bagno d'olio, così mi scritto, catena allora. Esiste anche la cinghia a bagno d'olio, Sant'Antonio mio. Allora quella falla subito. Qua dice, consiglia di. Consiglia i trucchi per la manutenzione della tua auto sito C3. La cinghia di distribuzione insieme alla catena di distribuzione, un componente di, del kit di distribuzione della tua C3. Poi a vedere. La catena va bene. E che cosa avrò fatto? Fai. La catena va benissimo, se ha quelle cinghie a bagno d'olio si stanno lamentando tutti, si rompono prima dei chilometri. Vabbè, ci fa che muore. Ma non devi rifare così. Gabri, vieni qua. Ma si lo portate? No, sono con la radio quella di Camera da letto. Aspetta, facciamo un'altra prova, tu, 2 secondi. Yeah. Non c'è niente, è come che siamo portati, no? È un Midland, 100 plus. Anto, mi senti, Anto? Io ti sto facendo con l'audio normale. No, normale. Il microfono su originale. Yeah, 1, 2, 3, prova. È un bel basso, eh. Sì, vabbè. Hola, hola. Ma prima cosa hai attaccato l'MB più 5? Yeah. Adesso non mi sento bene, lo sai. Come vai? Non so. Va bene questa radio? Ma è troppo bassa di modulazione. Hola. Meglio. Oh, oh, oh, 1, 2, 3, prova. Unica, eh. Titofonica. Titofonica? Sì, però già va bene, dai. Già, già si può ascoltare, ci ripeto. Beh, secondo te ci ripeto, sì. Va. Forse ora ha cambiato il coso, Anto, la capsula. Cazzo, mia bomba. No, chi c'è questa mia? Qua va benissimo. Lui con la tua, la vuole. Ehi, si migliora un po', ma non la sai. Scappa. Un microfono normale, no? Ah, fare? Se sei riuscito a trovare delle connessioni. Poi gli attacco MB4. Io ho un MB4. Ancora la stiamo prendendo, eh. E chi? Ce l'ha. Tanto ti mangi le parole, cosa hai detto? La fusaro l'MB4. Nuovo. E quando? Non lo so. Mi prima idea. Oggi ha aumentato un bel prezzo, eh. Non si può fare più nulla, le materie prime costano un bel soldi. Cioè, ci vogliono un bel soldi per comprare la roba. Qualsiasi cosa, cavolo, le materie prime hanno aumentato. Poi lo so, lo so. Già lo so, Anto, costa tutto. Sì, ma... a lui non convene, quindi di no. Cosa piace convene? A lui, lascia aperto. Sarà più basso, i video. Poi aria. Cazzo ti ho messo? Una e l'altra, la cazzo. È così, Anto. Tutto costa. Vuol pagare anche la dei respiri. Ma sai cosa è il discorso? Che la roba dei baracchini, poca roba sono vendenti. La cazzo non c'è più nessuno. Non c'è più nessun altro ormai. Anche lì nel amatoriale poca roba. Già lo so. Mi ha arruinato tutto. La stessa gente. Ma ho 8 figli con questo spinotto, eh. Ma cazzo fai? A cercare la cosa. Mi dovrei assillare un bel. Per attaccarmi di MB4. Adesso vediamo. Minimus, cosa fare? Però ti diviso. Come cazzo fai? Lui. Lascia verde. Bisogna capire qual è l'up-down. Bisogna capire chi è... che cosa, ma... microfono. Sarà tutto. Cosa c'è? Che stai sbagliando? Casino che cazzo di cose so. O magari posso anche chiedere, sai, dai gruppi me lo dicono come si fa. Ascolta, io mi addormento un po', però mi posso addormentare chissà che non sta più. Mamma mia, c'è un bel di sonno, cioè. Gabri, io ti dormiamo, poi mangiamo la pappa. Voglio cercare di riposarmi un pochino. Vai tranquillo, tu. Tranquillo e sereno. Va, ci sentiamo più tardi. Perché devi controllare col testa, perché alcuni sono di alimentazione. Ok. Io da due sono... Due sono per cambiare i canali. E poi gli altri sono di alimentazione, dovrebbero essere qualcosa del genere, e poi gli altri sono di cose, è mezzo casino. Va bene, là, ci sentiamo. Sì, ciao. Ehi, lì, no, butta la pasta. Ai. Ebbè lui. Ebbè, quanto è tutto quanto? Sì, tutto quanto. Ciao, microfono. Mamma mia, sto scendo male. Anche adesso? Adesso no. Ora, il microfono da un tubo. MB più 4, cazzo, metti. Ah, ragazzi, questo è un MB più 4, cazzo, yeah. Ma ne vale la pena? Cosa vale la pena? Sì, non lo capisco. Non c'è più nessuno, lui, vabbè, cosa sei conveniente? Parlando, Manuè. Adesso, combinando, lavorando stai? Sì, panificio. Panificio? Ehi, porto il pane. Ragazzi, non c'è altro, poi mi faccio dei lavori extra. Lavori extra. Andate bene. Poi poi sono aumenta, dai. Poi se ce n'è di più è meglio, ma va bene, da. Meglio piccolità che abbia di zia Ghito. Così Luca, veramente tocca stanotte, mamma mia. Lo so, Manuel. Alemano, ma te oggi stanotte, ieri lo stesso stanotte, è stata le 10. Oggi lo stesso, poi domani sono smonto domani e mi sta le 2. Sì, già va bene, da. Non ce l'hai WhatsApp a portata di mano? Sì, se lo pensavo, aspetta che lo prendo. Adesso tu sei scendi vari. Sei un attimo il mio numero, Luca, no, che non ce l'ho più. Non si vede mai qua la fotografia. Ho capito. E non ce l'ho più quel numero là. Non ce l'hai più quel numero là. Yo tenía la antena apuntando para la. Yo tenía la antena apuntando y déjame para la su menos su. Tenía un dalo para la isla y vi que saliste porque era 7 de la noche. Mira, condiciones para el norte. Y volteé antes. Tiene que ir para el norte. 70. Por aquí bregando con los inventos. Comenta, ¿cómo está el frío para allá, Roger? Y aquí, jamás yo sé cómo es frío allá en el norte, pero ya aquí. Mañana, esta mañana y ayer por la mañana va a 30, ayer mañana creo que era que estaba, yo siempre tengo ahí unos vegetales y una cumbra allá atrás de la casa, y ayer tuve que correr ahí a un greenhouse de eso ahí, me monté un greenhouse ahí para proteger los vegetales y eso, pues, no se van a dar obviamente, pero no se me mueren las matitas. Ya para acá también está haciendo swing. Ah, chacho, como dos, tres días. Aquí ya está haciendo un frío de carajete, oye. Uno tiene que estar encejado y la mano ahí, no se puede hacer. Viste, Roberto. Aparte de eso, ¿cómo vaya, oye? Está completa. Tiene como estas condiciones. Tarde antes de que me caiga completo. Me alegro de gente por aquí, casita, a 73 de gratis. Ya está cayendo. Dos pastitas ahí, Roberto, unas dos pastitas. Tremenda audio que tiene esa jodienda ahí. Dale, Mr. Roberto, que la mamá está ahí. Sí, viene más, sí. Subiendo y bajando, y dale, Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova, ora. Avanti, buonasera. Ecco a te, Antonio sono. Ciao Anto, buonasera. Come va? Dimmi. Piano piano, sto andando. Ti sei svegliato appena adesso? No, ero crescato perché non stavo bene. Aspetta un attimo, sto facendo una telefonata. Due secondi. No, io sono vicino a casa tua domenica, già lo sai. Cazzo, non c'era manco un cane in quel cazzo di... E per materialità sotto casa tua, manco un cane, vero, ragazzi? Dalle 7:15 alle 8:10. Non lo so. Ma qua è tranquillo, no? Non è... Non ce n'è casino qua. Ho visto l'antenna, ho visto, ma che cavolo gli messi a fare quei radiali? L'antenna va così all'origine, messa così, no, non serve a niente mettere i radiali. Si vede, ma l'hai guardata bene l'antenna, quella dei radiali ce ne ha tremi. Poi sotto ci sono i tiranti, ci sono. Ah, l'hai messa originale, l'hai messa? E allora, secondo te, cos'è? Ristampa? Te l'ho vista così di sfuggita. Mi sembrava modificata. Oh, ti sembra modificata perché in pratica nello stile monta la gabbia tristatica originale. E le antenne che facevano una vuota, capito? E tipo la Supervegibus, eccetera, eccetera. Usavo la gabbia tristatica, capito? Per, più o meno, hai capito? Quindi ti sembra diversa, ma non è diversa, è originale. Vabbè, forse l'ho guardato da lontano. Devo guardarla meglio. La mia è originale, senso. È precisa. È uguale, ma cambia solamente l'ultimo pezzo dello filo. Il discorso è quello. Che c'è la gabbia antistatica della Super Regibus oppure della cosa. Aspetta che il cazzo la montava con l'antenna. C'era un'antenna modello vecchio che montava la stessa indica cosa. La gabbia antistatica. Si chiama gabbia antistatica, si chiama per i fulmini, hai capito? È un cerchio, l'avevi visto largo. Antone, ce l'ho pure io, ce l'ho. In punta, c'è cioè quella gabbietta antistatica, è precisa l'antenna. Allora basta, è uguale, non cambia nulla. Precisa identica. Una volta la facevo diversa, la verità, comunque sia. Adesso hanno cambiato perché evidentemente qualche fume l'ha presa in pieno, come ha pagato il fume a me per avanzo, ma una volta che in pratica crolla la gabbiata di plastica, hai capito? Fatta con quattro cosi che scendono verso giù. È logico che il fumo che si piglia in pieno. Vabbè, ma a me non è che mi abbia pigliato il fumo sopra, a me mi ha pigliato una bobina, il discorso è diverso. Antone, non assidio pure la mia, è precisa identica, non cambia una virgola, non cambia, ho cambiato radio, sono andato in sala. Sì, sono uguali, sono precise identiche. L'ho vista stamattina, l'altro giorno che sono passato da te. Sono stato quasi dalle 7:10 fino alle 8, meno 10, aspetta, lo entriamo. Precisa, identica. Non cambia niente. Solo che la buona rimasta la fatta con la parte, io ce l'ho un'altra parte. Vabbè, comunque sia. In quante funzioni la tua, poi d'altronde ti se ne frega, va bene. Perché non funziona nulla? Perché ha fatto le applicazioni da così, che ha fatto la bomba, ha fatto la bomba leggera, d'accordo, ha tagliato il bomba di paura, ha tagliato il bomba di paura, bomba di paura, è un treno, poi vabbè accoppiata col 140 che c'ho io, cosa vuoi di più? Un lucano a un certo punto è un treno, sì, quindi non che la ciampa venuta a disegnare, non la manco mai quella, meglio così, sono con quasi 40 watt l'uscita la verità di potenza. Cioè, però se mi trovate, metto il modulo 500, già esce bene, no? Sono tranquillo. Ah, sì. Ah, certo. Una bomba. Ho veramente una bomba. Ah, vabbè. Ah, si è domato con la tua cosa, da Lido, la Lido c'è il sistema, poi se la piacerà. Gli ho dato il baracchino, gli ho dato il microfono l'altro giorno, quando avevo fatto il servizio al microfono amplificato, quindi adesso l'unica cosa che si comprare è un bel alimentatore, Daniele. Una volta butta giù la manto qua sua, da due ne fa una, lui è a posto. D'accordo, non c'è problema. Io sento il freddo stasera, ce l'ho fa bene io un po', infatti non arriva la manco di fare nulla, io dove sono dormito, non arriva la pizza lo sveglio. Il prossimo anno, guarda, andiamo il 12 e ci divertiamo, tanto ce l'hai vicino a casa tua, andiamo a mangiare, poi il 13 andiamo a fare la passeggiata. Ce l'hai posti qua? E se no, cosa fai qua? Non la metto in traccia? E se no, svegliamo... vediamo un rugoso, e se no che andiamo giù la patente, c'è chi fa la patente, intendiamo a me, ma la patente ce l'ho, se no quando mi prendo la macchina io ci faremo tutti a Platamona, e siamo lì, e siamo tranquilli, senza rotture di balle, io mi trovo, quando scendo lì, e passo quell'ora, sto benissimo. Ah beh, quello sì, è vero. Meglio così. Sono anche qua, un giretto qua. Il rione è grandissimo. È bello lo stesso. Ma a me piace molto vedersi, scambiare opinioni, è una bella cosa. Sto aspettando che avere qualche soldo per comprarmi la macchina. Speriamo di lavorare forte questo inverno. Ma come comprare un pezzo di macchina nuova? C'è nuova. Ti vengo qualche ti prendo se andiamo a Platamona o ci troviamo qua. Non è un problema, Antonello. E siamo più bene, siamo. Speriamo che ci chiamino a lavorare, cazzo, almeno quello, almeno sei tranquillo, ti prendi una macchina, ma io guarda, mi voglio prendere la macchina, la verità, ma speriamo un po', speriamo che le cose cambino con questo sindaco, in modo da, vabbè, tanto tu devi fare il servizio a Natale e a Capodanno e quindi sei a posto. Vabbè, adesso diceria dopodiché sei tranquillo, poi vabbè, speriamo adesso d'estate, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, infatti ci sono le feste e cose del genere, quindi ti chiameranno per fare, capito, i concerti, quindi incasserai senz'altro anche per quello. Siamo fermi, hola, sto facendo il bombolaggio adesso, sto muovendo il bombolaggio, non si giorno no, poi c'è una collega, io ce l'ho io, e domani ci sono io, domani. Facciamo così. Tutto prendendo questo cazzo dalla macchina, ma non vedo di nascone. Non mi serve la macchina a me. Adesso per il momento c'è questa moto, ma cioè, non vorrei che mi muovi a piedi qualche giorno, ma non l'ho mai fatto perché è sempre perfetta. Io se Dio non ha mai avuto grandi noie mai. Però vorrei prendermi la macchina per essere un po' più tranquillo, capito? Poi vabbè, l'importante è incassare, poi il resto quella della frutta. Anche a me piacerebbe incassare, la verità, anche a fare, come ti posso dire, cioè, andare a fare il pane la notte e poi riuscire verso le 10, le 11 del mattino, hai capito? Mi piacerebbe anche a me, purtroppo questa età qui non mi accettano, ho già chiesto. Ma non fai niente, adesso non ti dice niente, forse no. Non c'è nulla, già ho già chiesto, hai capito? Se no sono entrato a lavorare nella panettiere, quello che aiuto panettiere, quello che non me l'ha fatto nulla. La pedaliera, sei andato lì, l'avevi fatto dall'una alle 11 del mattino, mi sarei preso lo stipendio mio e va a fare quello fino ai 67 anni. Dopodiché si è potuto prendere pure in culo, hai capito? E invece purtroppo non è così. No, no, non ne vogliono gente del genere, capito? Purtroppo, Antone, il problema è che devi, come si dice, bisogna darsi da fare, capisci? Forse è proprio me, qualcosa si trova a sentino, a fare il giardiniere, eccetera, eccetera, non può fare altro, tutta la stagione, pagato e basta, è assicurato, non può fare altro, poi devi pagare anche il caso, non solo di essere assicurato, devi pagare anche la casa, perché mica già si danno in casa loro, il discorso è quello lì, hai capito? Quello, purtroppo è quello lì, ah, fanculo, cazzo. Se avessi male in Sardegna, se avessi messi male. Ma non c'è niente, proprio no, siamo molti, ma non male, no, peggio di male, non c'è nulla, non c'è niente molto. Telefono, dimmi tutto. Beh, per qualcuno non ti prende a fare manutenzione nel villaggio, tecnico, cioè cambia la padina, roba del genere. È tutto. E oltre che lo chiedi, lo sai anche tu, vuole assicurato, nei condomini così, non può farci niente, capito? Che fa, non ti stavo dando niente, scusa, cioè, non ti stavo dando una cosa, se non ti dà nulla, vai e ti assicuri. Purtroppo non ci danno niente, hai capito? Non fai qualche lavoro, non ci danno niente. Il discorso è quello lì. Se fai qualche lavoro, siamo fottuti. Quello perché non lo so, gli San Melone, gli San Presidente, Pucia, come si può dire prima, all'antica, Pucia che ha fatto un canao e le ha d'accordo e ti ha dato una macchia di gardena, ma la gente come fa a godere di una scema? Cioè, tu cosa ne sai dei problemi che uno ha in casa, delle cose da pagare che c'è in casa, dei problemi che c'è in casa, tu cosa ne sai? Scusa, o no? Quello è giusto, ma purtroppo lo sai com'è la questione, no? Hai capito? Se uno c'è il reddito, immediatamente cosa pensa? Anzi, cosa pensano gli altri che stanno rubando la pensione a loro? così, ha letto la Meloni e quindi a un certo punto ce l'aveva con te. Quindi, come fai tu a lavorare in nero? Me lo spieghi? Non puoi, quindi a un certo punto non puoi lavorare in nero. Due sono le cose, o ti togli i livelli di inclusione sociale e vai a lavorare in nero, e fai come facevano gli infermieri, si prendevano la bellezza dei 1600 euro al mese di cose di stipendio e più altri 2000 euro in nero. Chi faceva il muratore, chi faceva l'infermiere a casa, andava a fare le punture, eccetera, eccetera, hai capito? Allora si faceva così, ma nessuno si lamentava, il discorso è quello lì. Si doveva bene quando c'era la verità, adesso purtroppo è cambiato tutto. La colpa, cosa non lo so. Non so chi dava veramente la colpa. Prima si stava veramente bene. C'era lavoro per tutti, per i bar, per tutto c'era il lavoro. La gente pigliava e spendeva, certo. Adesso non c'è niente. Ormai stiamo morendo di fame. La gente, cioè, non è stato sbagliato a un certo punto. Però anche c'era un abusivismo, perché magari tu occupavi un posto che magari c'era un padre di famiglia che non poteva andare a lavorare, perché tu gli hai occupato il posto, anche quello c'era, cioè nascevano in malo modo pure, dice come, lavorava lì e poi cazzo viene qua a lavorare, non è giusto, più tutti va via dopo il tramaggio, e bisogna poco per primi. Appunto per quello, ma nessuno si è mai girato, il discorso è quello, quando c'era la lira che c'erano i vigili del fuoco, facevano il doppio lavoro, gli infermieri, i muratori, quanti c'erano, sono stati muratori che facevano lavoro in nero, parecchi, che erano una ditta per dire da lunedì a venerdì, poi il sabato e la domenica si facevano lavoro in nero. Tanto per essere chiari, quindi nessuno si è mai lamentato, strano. Adesso invece con la questione del reddito di inclusione sociale tutti si lamentano, hai capito? Il discorso è quello lì. Invece prima accettavano tutti, purtroppo è quello il problema. Vabbè, pazienza, io non so cosa dire. A un certo punto. Che bisogna cambiare questa politica di merda che hanno fatto di fare i buonisti del cazzo. Perché tu non puoi sapere, io per esempio sono una persona bella, ma mi trovo con questo bambino così, con mille migliaia di problemi, a me non ci può chiedere 2 euro al mese, ma me li vuoi dare. Ah. E non me lo toccare, quello lasciamelo stare, cazzo che sono in queste condizioni qua sono. Tu, i problemi di ognuno non si possono sapere. I problemi che si sono causati dentro una famiglia, che mi sono trovato a pagare migliaia di debiti, mi sono trovato a pagare, per colpa di qualcuno. Ma ti sembrano male. Aspetta, stanno chiamando. Posso arrivare le pizze? Sentiamo. Sì, d'accordo, non c'è problema. Es bueno también, pero un pico cerrado.